c'è la speranza che i nostri leader politici imparino da questa, questa situazione che è molto difficile e approcciano il problema in modo diverso. Purtroppo per il momento non si vede questo. Quello di cui non si è parlato oggi all'Ecofin è quello di come affrontare questo problema nel futuro anche per altri paesi. Perché attenzione, dietro la Grecia ci potrebbe essere il Portogallo e la Spagna, e l'Unione Europea non può salvare tutti questi paesi uno dopo l'altro. Per cui quello che manca per me, per il momento almeno, è la consapevolezza che qui non si tratta di un problema greco solamente, ma di un problema potenzialmente molto più importante, sistemico, che andrebbe affrontato con la creazione di un nuovo sistema, di una politica finanziaria comune, ma per il momento l'Ecofin non ne ha discusso.